se lei vince il Nobel viene qua subito, eh? Il minimo, ecco. Il minimo. Opla, opla, sembra una cosa saggissima, Nicoletta, molto saggia. E a Cesare quel che è di Cesare, e a Nicoletta quello che è di Nicoletta. Come bella questa domanda, allora, fermo restando. Ma qua siamo a cuore denari, professor infatti, Vaira, infatti, non infatti, è che... Infatti, lo so molto bene, lo so molto bene. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È come uno shock. È stato uno shock. Dolcissimo. Ci sono parole che solo a pronunciarle mettono paura. Una di queste è ictus, è una parola latina, significa colpo. Io non servono tante altre spiegazioni. Domani è la giornata mondiale a cuore denari, ne parliamo oggi per darvi la possibilità di organizzarvi, di sapere in anticipo anche le iniziative che sono organizzate lungo tutto lo stivale e magari qualcuno di voi decide di parteciparvi. Per questo vi diamo subito qualche sito di riferimento, sicuramente Alice Italia, ricco di informazioni e che segnala anche un'iniziativa particolare che vede protagonista le farmacie delle città italiane che faranno, pensate, il controllo della pressione arteriosa mediante un apparecchio che rileva però anche l'eventuale presenza di fibrillazione atriale. Ne abbiamo parlato tante volte, è una anomalia del ritmo cardiaco che causa ben 3 ictus su 4 e quindi ictus che potrebbero essere evitati grazie alla prevenzione e soprattutto a una diagnosi precoce. Trovate tutte le info sul sito di Alice, quindi cercate la farmacia che aderisce a questa iniziativa. Poi segnaliamo il sito di ALT, l'Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e poi il World Stroke Org in inglese, ma è ricco di informazioni, se siete pratici andate a buttare un occhio anche lì. Potete naturalmente, come sempre, iniziare a chiamare il nostro numero verde, lo state già facendo all'800 24 00 24, ci state mandando messaggi al 349 238 6666. Ma che cos'è l'ictus? Che cosa succede in pratica nel nostro cervello? Da dove parte il problema? E soprattutto oggi vogliamo sapere quali sono le situazioni che possono renderci più vulnerabili. Per rispondere a tutte queste domande in linea con noi abbiamo la professoressa Maria Luisa Sacchetti, è neurologo e ricercatore alla Sapienza e presidente onorario di Alice Italia Onlus. Buongiorno professoressa, benvenuta e bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi tutti. Allora, professoressa, partiamo da qualche dato che ci dice che l'ictus è la più importante causa di invalidità e la terza causa di morte nei paesi occidentali. I costi della patologia poi sono molto importanti, 3,7 miliardi di euro l'anno che corrispondono allo 0,23% del PIL. Però, professoressa Sacchetti, direi di lasciare da parte i dati allarmanti che credo che non fungano da molla per ridurre il problema, ma di concentrarci un po' sulle buone, tra virgolette, notizie. Il nemico c'è, è inutile fare finta di niente, ma noi abbiamo tutti gli elementi per evitare di incontrarlo e qualora questo dovesse capitare abbiamo anche armi che, se sfoderate in tempo e per tempo, ci possono salvare la vita. È così? Certamente. Certamente abbiamo farmaci per un tipo particolare di ictus cerebrale, forse ne parleremo più approfonditamente dopo, che è la trombolisi per l'infarto cerebrale. Sono paroloni, è semplicemente una specie di via calla, di sgorgatore di arterie che si sono chiuse perché dentro c'è un trombo che non permette al sangue di arrivare lì dove è necessario, in aree particolari del cervello. Quindi abbiamo un farmaco e abbiamo anche delle modalità organizzative particolari che hanno dimostrato di essere molto efficaci nel salvare non solo la vita dei pazienti colpiti, ma anche di ridurne la disabilità. Quindi insomma abbiamo molto nelle nostre mani e il mondo scientifico internazionale ha fatto tanto per darci gli strumenti utili alla cura dei nostri pazienti, sta a noi adesso adottarli, noi cittadini con la prevenzione, noi organizzatori e loro amministratori sanitari nel metterle a disposizione del cittadino. Professoressa, spesso nell'immaginario collettivo, quando si pensa al paziente colpito da ictus, si pensa ad un anziano maschio, ma non è così, come d'altronde dimostra la giornata di quest'anno, che è dedicata a noi donne, che siamo doppiamente coinvolte, sia perché siamo maggiormente colpite dalla malattia rispetto agli uomini, le statistiche dicono una su cinque, sia perché spesso l'onere del prendersi cura ricade spesso su di noi. Professoressa Sacchetti, perché noi donne siamo più vulnerabili degli uomini? Che cosa abbiamo di diverso? Quali sono i fattori di rischio con cui dobbiamo fare i conti? Allora, i fattori di rischio con i quali dobbiamo fare i conti sono legati un pochino alla nostra natura, nel senso che l'aspetto ormonale gioca un ruolo positivo, protettivo fino alla menopausa, e dopo la menopausa invece ci mette, così, come si suol dire, al pari degli uomini. Però la differenza fra gli uomini e le donne è che noi mediamente facciamo più di una cosa insieme, quindi siamo evidentemente più esposte anche ad uno stile di vita che è molto stressante, e quindi ad avere la pressione alta quando andiamo avanti con l'età, e spessissimo, abbinata alla pressione alta, c'è anche la fibrillazione atriale, che è una patologia a sé stante ma che si associa spessissimo all'ipertensione per motivi che è inutile che vi sto a spiegare qui. E che viene spesso diagnosticata in ritardo, vero professoressa Sacchetti? Sì, diagnosticata in ritardo, perché la fibrillazione atriale può essere totalmente asintomatica. Qualche volta può dare un malessere generale, questa sensazione che il cuore batta in maniera più caotica, più rapida o più lenta, ma comunque non regolare, ma è difficile soggettivamente, senza un elettrocardiogramma, capire se quel malessere generale che noi stiamo sentendo è un episodio di fibrillazione atriale o una cosa del tutto banale. Per questo motivo l'apparecchietto che noi andiamo usando ci sembra particolarmente utile, perché insieme con la pressione ci dice: guarda, forse, non sicuramente, forse c'è anche un disturbo del ritmo, è bene che tu vada dal tuo cardiologo, dal tuo medico di famiglia e ti faccia controllare. Ci sono tante farmacie che hanno aderito a questa iniziativa, per sapere quella più vicina a casa basta andare sul sito di Alice, professoressa Sacchetti, è questo? Sì, il messaggio? È vero. Sono molte, è difficile elencarle, quindi, però questa è una collaborazione che l'associazione Alice Italia Onlus con le farmacie italiane sta portando avanti da almeno 2-3 anni, è una collaborazione da un punto di vista organizzativo sicuramente impegnativa, difficile, ma speriamo che serva ad aumentare un pochino la conoscenza e la consapevolezza del cittadino comune, speriamo non del paziente, nel senso speriamo di arrivare prima della malattia, per capire quali sono le misure da prendere per prevenire sia la fibrillazione atriale ma soprattutto l'ictus. Certo, 800 24 00 24, se volete parlare con noi, se volete parlare con noi di prevenzione ma anche raccontarci le vostre storie, avete o avete avuto familiari che hanno avuto un problema serio di natura cardiovascolare, addirittura un ictus, ma raccontateci se siete fumatori. Professoressa Sacchetti, mi dica se faccio una convocazione corretta: se siete fumatori, se siete sovrappeso, se i vostri esami del sangue hanno messo in evidenza problemi rispetto alla presenza di grassi nel sangue, in particolare livelli alti di colesterolo, trigliceridi, se soffrite di ipertensione e se avete anche uno stile di vita sedentario e fate poca attività fisica. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Professoressa, uno studio svedese molto interessante fatto su 31.696 donne dimostra che scegliere uno stile di vita sano può dimezzare il rischio di ictus. Queste sono notizie che noi leggiamo e che accantoniamo, no? Perché diciamo sì, ecco. In realtà questo studio studio dimostra quello che noi quotidianamente ripetiamo, che ciascuno di noi può essere protagonista attiva della propria salute e del proprio benessere, mettendo in atto, no, delle cautele, delle attenzioni, ascoltando, bravo, ascoltando anche solo i messaggi che il corpo manda. Certo. Questo è uno studio, lo studio svedese a cui si riferisce è uno studio molto interessante, non solo per le informazioni che ci dà, ma perché ci dà indicazioni precise. La vita sana, fare uno stile di vita sana può essere anche un modo di dire troppo generico. Ci sono 5 elementi che rendono la vita sana, e cioè una dieta ricca di frutti, vegetali e pochi acidi grassi. Quindi pochi grassi. 2, non bere più di 9 alcolici, bicchieri di alcolico o superalcolico a settimana. Fare un'attività fisica per almeno 40 minuti al giorno, camminare, andare in bicicletta. Valgono anche le scale, non dobbiamo andare in palestra, ecco, muoverci. Basta che siano 40 minuti al giorno di seguito e poi un'ora a settimana di esercizio pesante. Questo è un pochino meno facile, soprattutto quando si va più avanti con l'età, ma noi stiamo parlando, ecco, di prevenzione, quindi possiamo fare sin da giovani. Professoressa Sacchetti, pulire la casa è già un'ora di attività pesante, se uno pulisce i pavimenti, ti pulisci i vetri, vai su e giù a portare, no? Ecco, noi lo sappiamo bene, questo vale come un'ora di palestra sicuramente. E l'ultima cosa, fare attenzione al peso rispetto all'altezza. Il rapporto peso-altezza, che sarebbe l'indice di massa corporea, deve stare sotto i 25. Quindi tutto sommato non è molto difficile, ci vuole costanza e bisogna cambiare un pochino il nostro modo di approcciare la vita di tutti i giorni. Se volete e poi vi do una notizia che è una curiosità. Dai, mi piace. Che viene da New York, dall'Albert Einstein College of Medicine, che dice che le donne che assumono più di 4,5 grammi di potassio al giorno riducono il rischio di ictus cerebrale, di infarto, del 27%. Questa è una notizia recentissima. Fantastico. Allora, più di 4 grammi di potassio al giorno, in sostanza 4,7 milligrammi, sì, ecco, in sostanza a che cosa corrisponde? Dove lo troviamo? Banane? Nelle banane, nelle patate dolci, in genere negli alimenti. Cerchiamo di evitare quegli integratori alimentari che hanno lo zucchero, quindi da una parte ci aiutano e dall'altra invece meno. 800 24 0024, se volete parlarne con noi, se volete raccontarci anche le attenzioni, i cambiamenti che avete attuato nel vostro stile di vita, magari suggerite da uno degli esperti di Cuore Denari. E intanto fateci le vostre domande, raccogliete i vostri dubbi. Alberto ci chiama da Roma e poi Luca dalla provincia di Treviso. Io naturalmente invito gli ascoltatori ma anche le ascoltatrici. Questa giornata è dedicata a noi donne, che siamo più vulnerabili, e quindi impariamo le regole della prevenzione. Alberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione, molto interessante queste cose. Senta, io volevo fare una domanda. Io ho avuto mia moglie che 5 anni fa ci ha avuto un gravissimo ictus cerebrale. I medici dissero subito che non avrebbe recuperato più niente dalle paresi che si erano formate. Ora invece da un anno a questa parte stiamo notando, io con i fisioterapisti che la seguono, che sta recuperando, il braccio comincia a muoverlo, la gamba pure. È possibile questo fatto, che era stato escluso all'inizio? È certamente possibile, sì. E questa è certamente. E come cioè, perché Alberto ci racconta? I medici gli avevano detto non sarà possibile, e invece, per fortuna, questa è un'ottima notizia, ma la moglie di Alberto sta recuperando. Allora, perché la probabilità di recupero maggiore si ha nei primi giorni, nelle prime settimane e nei primi mesi dopo l'ictus. Con il passare del tempo le probabilità si riducono, ma che si riducano le probabilità non vuol dire che non ci capiterà di migliorare, anzi, più si fa esercizio fisico, più si fa riabilitazione, più si fa fisioterapia, più si adopera l'arto, si cerca di adoperare la parte del corpo che è stata paralizzata, maggiori sono le probabilità che recupereremo, perché il cervello è plastico. cioè il cervello è capace di intraprendere delle nuove strade per arrivare a far fare all'organismo quello che prima, quell'azione che prima veniva svolta da una parte del cervello che adesso è morta. È come se su una strada noi troviamo un intoppo, uno sbarramento, e allora piano piano cerchiamo delle strade collaterali per arrivare sempre a destinazione. Figurativamente potrebbe funzionare così, come se il cervello creasse, mettesse in piedi nuove strade per arrivare a destinazione, ed è un fenomeno veramente molto affascinante per noi che lo studiamo, e sicuramente è un faro molto importante per i pazienti. Allora, vogliamo oggi, professoressa Sacchetti, insieme a lei ricordare alcuni segnali, alcuni campanelli d'allarme che possono talvolta spingerci a sottovalutarli, ma che invece devono raccontarci e invitarci a consultare il medico. Le passiamo in rassegna rapidamente prima di dare la parola ad Adriano. Allora, l'improvvisa debolezza o l'insensibilità o la comparsa di formicolii a una metà del volto, a un braccio, una gamba, oppure a tutta la metà del corpo. Si può pensare, mi sono seduta male. Ecco, lei, questo è un segnale che molte persone possono riconoscere perfettamente, ma qual è la differenza tra una condizione fisiologica naturale e invece quella patologica? Se avessimo un semaforo, ecco, mi dica quando è verde, quando è arancio e quando è rosso. Allora, il semaforo è verde quando il disturbo è consueto, nel senso, un formicolio per esempio ad un braccio, noi sappiamo che quel braccio lì soffre un pochino di artrosi, ci abbiamo dormito male la notte, quello nel giro di pochi secondi cambiando la posizione passa. Quando invece lo stesso formicolio, oltre che al braccio, magari viene anche alla gamba o anche al volto, e allora anche se è durato pochi secondi, quello è un campanello d'allarme molto importante. Le persone che debbono prestare attenzione a tutti i sintomi che lei ha perfettamente elencato prima sono ovviamente le persone che hanno più di 65 anni e uno o più fattori di rischio. Certo, come dicevamo prima, anche i giovani ne possono soffrire, ma tutti i giovani sanno se fanno una vita sedentaria, hanno degli stili di vita sbagliati, se usano degli eccitanti, delle droghe eccitanti, fare particolare attenzione perché... non si scherza, purtroppo no. Non si scherza. Cuore e denari. Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta, c'è il divieto di sosta. Dal 3 novembre patente e libretto devono essere dello stesso intestatario, pena multe di 700 euro per i trasgressori. Se avete sentito qualcosa del genere, vi siete comprensibilmente preoccupati, magari perché semplicemente guidate un'auto intestata ad un vostro familiare, oggi vi tranquillizziamo perché si tratta di una semplificazione a dir poco eccessiva e bisogna stare attenti a non fare troppo allarmismo. Che il 3 novembre, quindi lunedì prossimo, entrino però in vigore delle nuove regole è verissimo. Nella seconda parte della trasmissione, per la pagina di Denari, facciamo chiarezza su questa notizia che è circolata negli ultimi giorni, ma più in generale torniamo a fare un check-up di tutti i documenti che dobbiamo avere in auto per viaggiare in modo corretto, ma faremo anche un ripasso delle regole per la revisione dei nostri veicoli. 800 24 00 24, voi sapete a chi è intestata l'auto che guidate e quando è stata fatta l'ultima revisione? Vi ricordate? Guardate la data in cui scade la vostra patente? Il nostro esperto del codice della strada, Silvio Scotti, risponderà a tutti i nostri dubbi per avere una documentazione in regola dalla nostra quattro ruote. Come si cambia? Sentire il soffio della vita giochiamo d'anticipo. Oggi la prima parte di Cuore Denari è dedicata alla giornata mondiale dell'ictus, che quest'anno punta i riflettori proprio sull'universo femminile. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Sacchetti. Molti ascoltatori vogliono parlare con lei, professoressa Sacchetti, ma io vorrei terminare di raccontare quei campanelli d'allarme a cui a volte che non riusciamo a riconoscere e che a volte trascuriamo. Abbiamo parlato del formicolio. Tra i vari segnali che il nostro corpo ci manda può esserci anche l'improvvisa incapacità di esprimersi o di comprendere qualcuno che parla, o l'oscuramento, la perdita della visione da un solo occhio, o quella vertigine inspiegabile, un capogiro, lo sbandamento, oppure un grande e violento mal di testa. Sono tutti segnali e sensazioni e malesseri che ciascuno di noi ha provato, magari per pochi secondi. Professoressa Sacchetti, quale messaggio vogliamo dare? Il messaggio che vogliamo dare è a sintomi importanti, come abbiamo detto il formicolio, oppure la perdita di forza in una parte del corpo, il non riuscire a parlare per più di pochissimi secondi, oppure anche per pochissimi secondi ma in maniera ripetuta, che sono dei piccoli attacchi ischemici transitori, allora bisogna sicuramente rivolgersi a uno specialista, o al neurologo o al pronto soccorso se i disturbi rimangono per qualche ora. È sempre difficile fare uno spartiacque fra il disturbo insignificante e quello che invece è definitivo. Però ciascuno di noi conosce se stesso e quindi sa riconoscere se il disturbo che sta avendo è una cosa nuova, diversa da quella che di solito apprezza, essere una cosa seria oppure no. Certo, c'è il rischio che di fronte a una vertigine si vada in ospedale in maniera del tutto inappropriata. Però forse è meglio andare in ospedale una volta in più che una volta in meno. Adriano da Milano, 800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno a lei. Grazie per l'opportunità. Volevo fare questa domanda alla professoressa. Io di recente ho fatto degli esami diagnostici e ho scoperto di avere una dislipidemia e l'omocisteina alta. Credo che questo possa essere un indice di rischio. A maggior ragione il mio quadro clinico è questo: sono un uomo di 46 anni, non sono normo peso, ma ho una familiarità perché mia mamma ha avuto un ictus e è deceduta per questo. Può essere un fattore di rischio? Grazie Adriano, ci racconta la sua storia, il suo profilo. È un profilo a rischio, ha familiarità, la mamma è mancata per un ictus, ci segnala gli esiti dei suoi esami, e la domanda di Adriano vuole anche aiutarci a fare una riflessione, una relazione tra omocisteina e rischio di ictus. Allora, sicuramente avere un'omocisteina alta aumenta il rischio di ictus, così come la familiarità per ictus ci espone maggiormente. Per fortuna il nostro ascoltatore è giovane e quindi un pochino si bilancia. L'indicazione che io gli darei è assumere acido folico, che contrasta questo effetto negativo della omocisteina alta, e poi andare dal proprio medico curante, perché lui sicuramente saprà cosa è più appropriato, cosa è più indicato fare nel singolo caso. Il medico di famiglia è quello che si prende cura della salute nel suo complesso dei pazienti, e quindi per il nostro ascoltatore è il referente più appropriato. Allora, stiamo portandoci a casa, come si dice, tanti consigli, tante informazioni. Il potassio, a cui si riferiva la professoressa Sacchetti, i famosi 4 grammi di potassio che proteggono la salute del cervello femminile, ma immagino anche maschile. I nostri ascoltatori chiedono allora quali sono gli alimenti ricchi di potassio. La professoressa Sacchetti ha citato le banane, le patate dolci, ma anche i pomodori secchi, la paprika, l'origano, i fagioli, i pistacchi, le lenticchie, i ceci ne contengono, professoressa. Certo, è vero. mi sta facendo venire in mente di dire però attenzione sempre a non esagerare, soprattutto non debbono esagerare quelle persone che soffrono di aritmie cardiache, perché poi avere dei livelli troppo alti di potassio, così come di sodio, se si soffre di una patologia del cuore, può non essere sano. Insomma, sempre ci vuole equilibrio. Ecco, la misura. La misura, sì. E lei ha suggerito ad Adriano l'assunzione di acido folico perché ha l'omocisteina alta. Questa è un'indicazione che vale per tutti, che così rispondiamo? Sì, sicuramente sì. Tutti quelli che hanno l'omocisteina alta. Luca, buongiorno dalla provincia di Treviso, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Io volevo rendervi partecipi della mia storia. Sì. Velocissimo, nel 2011 mi è stata riscontrata una fibrillazione atriale per visita angiologica per ipercolesterolemia. Sì. Sono entrato sotto farmaci, abbiamo fatto una prima cardioversione, non è andata a buon fine, ho fatto una seconda cardioversione ed è andata a buon fine. Un anno di sospensione del farmaco per il controllo dell'IPT e a un anno di distanza dalla cardioversione positiva io ho fatto un ictus, un'ischemia cerebrale. È stata transitoria, è andato tutto bene, adesso sono sano, ho 46 anni, però il suggerimento che io do è, primo, attenzione alla familiarità, perché mia mamma aveva la fibrillazione atriale. Secondo, essere molto attenti ai sintomi e ai segnali che comunque il corpo dà, perché per me è stata asintomatica la constatazione di essere in fibrillazione, però adesso col senno di poi qualche segnale il mio corpo me l'ha dato. Ad esempio, Luca, noi li abbiamo ricordati per bene, vuole aggiungerne qualcuno, ci aiuti? Ma ho avuto dei momenti in cui probabilmente col senno di poi ho avuto dei malesseri, delle vertigini, quindi non ho avuto la stabilità a livello di corpo e quindi probabilmente il cuore andando in difficoltà, non pompando sufficientemente sangue e cervello, mi ha dato questi scompensi. Però sono tutte cose che valuti dopo, a posteriori. E comunque adesso, invece, insomma, la ringrazio Luca per aver chiamato e per dire a chi ci sta ascoltando attenzione, ascoltate i segnali del vostro corpo. La ringrazio e io voglio ringraziare anche Daniela Maizeni che è in linea con noi. Buongiorno. Benvenuta Daniela. Buongiorno a voi, buongiorno alla dottoressa Sacchetti. Buongiorno. Allora Daniela, buongiorno. La vita cambia l'11 gennaio del 2013 quando è colpita da un ictus. Daniela, com'era la tua vita prima di quell'11 gennaio e com'è adesso? Ma prima dell'11 gennaio ero un'ipersportiva, un'imprenditrice, correvo dietro al tempo continuamente. C'è stato chi mi ha detto che correvo a 300 all'ora e solo una botta di 300 all'ora poteva fermarmi, così è stato. Dopo le 8:30 di sera dell'11 di gennaio la mia vita è cambiata, ho perso tutto, ho perso la mia società, ho perso tutta la mia attività. Non ho perso quello che non sapevo di avere, il coraggio di vivere, che io trasformo in continua battaglia. Io non so di essere coraggiosa, so di combattere, so farlo molto bene, ecco, ed è quello che ho iniziato a fare sin da subito. La prima cosa che ho mosso è stato un indice, l'indice della mano destra. Io sono emiplegica, emorragia cerebrale, da MAV, malformazione arterovenosa, sintomi ictus, e da lì confermo quello che dice la dottoressa Sacchetti con una sottolineatura. Però io ho avuto due momenti di mali di testa e sono dei mali di testa fenomenali, sono come delle fitte al cervello e ti fanno un dolore cane. Il problema è che non ci pensi perché vai avanti e corri. Non vorrei allarmare le persone con i mali di testa. Il male di testa è assolutamente riconoscibile, perché come diceva la dottoressa Sacchetti, sono dei momenti che il tuo corpo riconosce in quanto prima non sono mai esistiti. Io quei mali di testa li ho ricordati poi quando mi sono svegliata e sono stati veramente lancinanti. Sono stata stupida io a non andare da un medico, ma come fai ad andare da un medico per due mali di testa durati 3 secondi, ecco. Quindi l'ictus o l'emorragia cerebrale è una brutta malattia per questo, perché è latente, è silenziosa spesso e volentieri, e poi tiri le somme e dici ma quel ne valeva giorno la pena. Ecco, ne valeva la pena trascurare questi segnali. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme con la professoressa Sacchetti e Daniela, che ci racconta la sua storia, ma che ci manda un messaggio forte e chiaro, che secondo me è il messaggio più bello per celebrare la giornata mondiale contro l'ictus. Cuore e denari. E Daniela va avanti, è in linea con noi. L'11 sì. gennaio del 2013 è stata colpita dall'ictus, ma Daniela non si è arresa. Insieme a noi sta riflettendo sui segnali a cui non ha dato peso per una vita che, Daniela ci racconta, era portata sempre contro il tempo a 360 certo. gradi. Professoressa Sacchetti, lo stress, questa vita sempre un po', sempre alla ricerca di fare nuove cose, tenere sempre il passo, le preoccupazioni che Daniela ha avuto per come imprenditrice possono in qualche modo slatentizzare o diventare delle, no, non dico dei fattori di rischio, ma in qualche modo predisporci? Allora, fare tante cose non necessariamente insieme, contemporaneamente, non necessariamente vuol dire essere sotto stress. Stiamo attenti, fare, pensare, muoversi tiene anche attivo il nostro cervello e previene anche una cosa, un'altra patologia molto seria e grave, che è il decadimento cognitivo, la demenza. La cosa importante è, come ha detto giustamente lei prima diverse volte, ascoltare il proprio corpo. Non bisogna fare necessariamente 10 cose insieme se ci sentiamo affaticati, e soprattutto rendiamoci conto che il segno dello stress, dell'affaticamento, è spesso la pressione alta. La pressione alta è come, io dico sempre ai miei pazienti, è come mandare in un tubo che va a innaffiare il nostro giardino l'acqua ad una pressione eccessiva. Piano piano questo tubo diventa troppo duro o certo. si rigonfia. Quindi o si rompe o si chiude, ecco, questo è l'effetto un pochino dell'ipertensione sul nostro organismo. Lo stress si manifesta anche con la glicemia alta. Quante persone non hanno familiarità per diabete, non sono stati mai diabetici, a un certo punto si sottopongono a un super lavoro e la glicemia comincia ad aumentare. Sì. Sono diventato diabetico? No. No. Lì è il nostro organismo che sta semplicemente producendo più la forma di cortisone endogeno nostro dell'organismo per farci lavorare di più. Questo è il prodromo, il modo giusto per esporci ad una patologia di vario ordine e natura. Certo. Poi purtroppo ci sono le malformazioni congenite, su queste sì. noi no. Diciamo sempre non possiamo fare certo. nulla come però, prevenzione. Ecco, però la prevenzione parte da noi per prime, insomma, ascoltiamo il corpo, sottoponiamoci al controllo regolare della pressione. Ma io voglio chiudere questa prima parte di Cuore Denari con il messaggio di Daniela, una donna coraggiosa che adesso ha in programma addirittura una bellissima impresa. Daniela, dove andrai? Ma io voglio andare nel deserto dei Gobi e lancio un appello a chi mi può aiutare, perché da quando sono stata male ho incominciato sin da subito a fare terapia cognitiva, che infatti riconosco alla dottoressa quello che ha detto, il senso del cervello. Io ho seguito il metodo Perfetti e poi palestra, piscina, palestra all'infinito, 2 ore, 3 ore al giorno di palestra, perché non potevo fare nulla, quindi ero seduta sulla sedia a rotelle, quindi intanto ho fatto lavorare le braccia e poi le gambe. E quindi appena riprenderò la mia caviglia, che in questo momento non va molto d'accordo con me, sì. ecco, io voglio andare nel deserto dei Gobi. Mi sto preparando per andare nel deserto dei Gobi. E noi mandiamo un appello. Daniela, donna coraggiosa, vuole così, dopo un ictus, una svolta nella sì. sua vita, vuole andare sì. nel deserto dei Gobi. Sì. Daniela, noi ti seguiremo, ma tu tienici aggiornata. Certo, io un appello vorrei dire, ed è il motivo per cui vado nel deserto, non mollate mai, compagni miei, non mollate, tenete duro e combattete contro questo pezzo di legno che vi sembra la vostra parte del corpo, perché solamente mantenendo attivo il cervello e mantenendo attivo il movimento, anche se minimo, ce la fai a sentire minime soddisfazioni, ad avere minime soddisfazioni di te stesso, perché quando hai perso tutto ti accontenti anche di pochissimo. Ecco, grazie Daniela, un abbraccio grande a Daniela Maizeni, che grazie, ci dà tanto coraggio, e noi speriamo anche di dare coraggio a lei e a tutte le persone che come Daniela stanno lottando e stanno seguendo una riabilitazione e con coraggio vanno avanti passetto dopo passetto. Ringrazio naturalmente la professoressa Maria Luisa Sacchetti per i suoi consigli, la sua chiarezza. Grazie professoressa Sacchetti. Allora, domani giornata mondiale contro l'ictus, noi ne abbiamo parlato oggi, andate sul sito di Alice, di ALT, guardatevi le iniziative e imparate ad ascoltare i segnali del vostro corpo. Grazie. Vigile, ancora un'altra mutano. Non vede, ne ho già. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di multe. Una multa da 700 euro ci rovinerebbe la giornata, tanto per cominciare, poi naturalmente anche il portafoglio. Meglio prevenire anche questa eventualità. Non è qui per farci la multa, ma per chiarirci le idee. Come sempre il nostro prossimo ospite sale a bordo di Cuore Denari, Silvio Scotti, esperto per il Sole 24 Ore del codice della strada. Dottor Scotti, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. All'800 24 00 24 oggi con Silvio Scotti rispondiamo a tutti, anzi risponde lui, non io per carità, a tutti i vostri dubbi sulla documentazione dell'auto, quali documenti avere a bordo, ogni quanto vanno aggiornati, dal libretto alle revisioni all'assicurazione. Iniziate quindi a prenotare i vostri interventi. Allora Scotti, prima di dare la linea al GR, un chiarimento su questa novità che si attiverà dal 3 novembre, lunedì prossimo. Ecco, direi che un chiarimento ci vuole perché è veramente una sorta di scatola cinese. Parliamo di una modifica introdotta dalla legge numero 120 del 2010, questa modifica è stata introdotta prima nel codice della strada, è stato introdotto il comma 4 bis dell'articolo 94, successivamente si è intervenuti sul regolamento con un DPR uscito nel 2012, dopodiché abbiamo una circolare applicativa del 10 luglio e un'altra proprio di ieri. Quindi è una sorta di scatola cinese. Si tratta comunque del tentativo del legislatore di annullare la divaricazione che in taluni casi esiste tra chi conduce l'auto e l'effettivo intestatario della carta di circolazione, quindi il proprietario. Si cerca di avvicinare sempre di più queste due figure. Ma io mi scusi, io non ho capito, le multe sono salate, si parla di 700 rotti euro di ritiro della carta di circolazione, ma se io ad esempio sto guidando l'auto di mio marito, posso farlo? Sì, tranquillamente. Allora, innanzitutto chiariamo subito che non si applicano queste norme, quindi non c'è nessun adempimento per quanto riguarda i familiari che siano conviventi. Quindi si può tranquillamente continuare, il figlio può continuare tranquillamente a guidare l'auto del genitore purché vi sia una situazione di convivenza. Quindi se ad esempio però il figlio va a vivere va a vivere in un'altra città per studio, oppure si trasferisce, fa un cambio di residenza, la macchina del genitore non può più usarla. No, la può usare a patto di fare l'aggiornamento della carta di circolazione, quindi deve segnalare che vi è una sorta di comodato in questo caso del suo genitore a suo favore, quindi lui potrà tranquillamente condurre l'autovettura, però dovrà segnalarlo agli uffici della motorizzazione civile. E quanto costa questo aggiornamento? In totale sono 25 euro, cioè sono 16 euro per la marca da bollo in quanto si tratta di un'istanza e quindi è la classica imposta di bollo, dopodiché 9 euro per la vera e propria pratica che è il tagliandino di aggiornamento. Sì, direi che rispetto ai 700 euro che si rischiano di multa meglio aggiornare. Che sì, dice? Direi di sì, che è più economico. Allora, adesso il nostro GR, Silvio Scotti rimane con noi, a tra poco. Cuore e denari. Allora, rimettiamo mettiamoci in moto in questa puntata di Cuore Denari. Con noi c'è sempre il nostro Silvio Scotti, esperto di codice della strada per il Sole 24 Ore. Siamo partiti dal 3 novembre. Dalla prossima settimana la carta di circolazione della macchina e la patente dovranno coincidere, cioè essere dello stesso intestatario. Ma aspettiamo a preoccuparci, leggiamo bene la norma, lo facciamo naturalmente con il nostro esperto. Silvio Scotti, ho capito che la norma non riguarda i familiari conviventi a patto che risiedano allo stesso indirizzo, giusto? Esatto. Poi, molto difficilmente sarà sanzionato, immagino, chi prende in prestito un'auto dall'amico. No, assolutamente. Perché come si fa a provare? In ogni caso deve essere un prestito, quindi un comodato tecnicamente detto, superiore ai 30 giorni, quindi se io guido occasionalmente l'auto di un mio amico non si deve assolutamente provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione. Si tratta di situazioni molto più ampie che possono riguardare le aziende che usano per esempio dare incomodato i veicoli ai loro dipendenti, oppure chi guida un'auto di una persona deceduta nelle more di acquisizione dell'eredità, qualora queste le pratiche richiedano, e solitamente lo richiedono, più di 30 giorni, oppure nel caso di locazione senza conducente per periodi superiori ai 30 giorni. Stiamo parlando di questa casistica. 800240024, quindi mi sembra che non ci sia tanto da preoccuparci. Noi tendiamo a preoccuparci per queste cose e poi magari dimentichiamo la revisione, tema a cui dedicheremo naturalmente attenzione in questa parte di Cuore Denari, vero dottor Scotti? Sì, direi di sì, perché la prima cosa per circolare con l'autovettura è assicurarsi di avere la patente che non sia scaduta, e questo l'abbiamo già visto in una delle scorse puntate. Dopodiché bisogna controllare la propria carta di circolazione e vedere che l'auto sia a posto con la revisione, controllare poi di avere con sé il certificato di assicurazione, dopodiché ci si può finalmente mettere in marcia un pochino tranquilli. Allora, noi mettiamo in marcia subito i nostri ascoltatori e mi sto accorgendo dai messaggi che praticamente nessuno usa la propria macchina, perché il marito l'ha impressa alla moglie, la moglie la passa saltuariamente all'amica, il figlio convivente in un'altra città la fa usare alla compagna. 800 24 00 24. David dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Lei che caso mi presenta? Niente, noi abbiamo una vettura, che in famiglia abbiamo una sola vettura, e mia moglie, che utilizzo io per lavoro, mia moglie da alcuni mesi utilizza la macchina del nostro vicino, ecco. Che in seguito a un infortunio, insomma, non può più guidare, una persona anziana, e quindi la utilizza saltuariamente lei per accompagnarlo, magari per fargli un certo, favore, per andare a fare la spesa, e anche per fare la spesa. Volevo sapere se era un problema, siccome è una cosa che si sta ripetendo sempre più spesso, se poteva essere un problema in seguito a un posto di blocco o quant'altro, o anche ecco, purtroppo un incidente. Mi sembra che non dovrebbe esserci un problema, ma Silvio Scotti, se la moglie di David viene fermata, che cosa deve dire? Allora, innanzitutto si tratta di capire se è semplicemente un uso saltuario dove io faccio il favore al vicino per accompagnarlo, e quindi l'autovettura non è nel mio possesso, ma in realtà è fungo semplicemente da autista, allora non siamo in questa casistica. Qua siamo di fronte invece quello che la legge vuol regolamentare, quei casi in cui l'intestatario della carta di circolazione non dispone effettivamente del proprio bene perché ha concesso in uso, e non si entra nel merito del contratto, il bene ad un altro soggetto che effettivamente ne esercita proprio il possesso, cioè ne fa un po' quello che vuole. E quando questa situazione supera i 30 giorni è necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione. Mi scusi, ma io come faccio a sapere che è un giorno, 30 giorni o 3 giorni? Cioè, io come vigile? Ci sono dei controlli che vengono fatti, ovviamente sulla strada immediatamente non è possibile, però attraverso dei controlli incrociati e verificando l'intestatario della carta di circolazione con chi effettivamente la guida e la situazione giuridica, si può risalire. Si tratta senza dubbio di accertamenti complessi che all'attualità, sulla cui base attualmente non abbiamo una effettiva esplicazione pratica, l'avremo in futuro, anche perché ricordiamo che il 3 di novembre non è tanto la data da cui si potranno applicare le sanzioni, ma la data dalla quale diventa obbligatorio, nel caso di un comodato superiore ai 30 giorni, comunicarlo e quindi ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. Molti dei nostri ascoltatori ci stanno chiedendo, evidentemente sono motociclisti o hanno motorini e scooter, se questa norma riguarda anche scooter, moto, motorini, motoroni. Beh sì, in realtà riguarda diciamo la situazione dei veicoli registrati, ecco. Tutto quello che ha motore e che va sulla strada? Quasi. Sì. Andiamo ancora alle telefonate dei nostri ascoltatori, che però sono cadute all'800 24 00 24, e affrontiamo per bene il tema della revisione, Silvio Scotti, che è un documento molto importante. Sì, senz'altro, ricordiamo innanzitutto la periodicità della revisione, anche se so che i nostri ascoltatori la sapranno senz'altro. Ma però, non ci faccio delle domande dirette. Dunque, diciamo che dal momento della prima immatricolazione, quindi quando acquisiamo il veicolo nuovo, il veicolo non deve essere sottoposto a revisione per 4 anni, quindi alla scadenza del 4º anno devo sottoporlo a revisione. Successivamente la revisione va effettuata ogni 2 anni ed è purtroppo molto frequente dimenticarsi di questo adempimento, che scade esattamente nel mese, cioè quindi se ho acquisito un'auto per esempio il 1º di marzo devo effettuare la revisione entro il mese di marzo alla scadenza del 4º o del 2º anno, a seconda che si tratti di un'autovettura di prima immatricolazione oppure già con qualche anno. Andiamo a Mario, ci chiama da Teramo, buongiorno, forse ancora per il problema della norma del 3 novembre, non è così, ma insomma per abbinare la carta di circolazione alla macchina, della macchina e la patente. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei, senta, io ho un problema, che ho una macchina che è intestata a mia moglie, la quale è deceduta un po' di tempo fa. Sì. E io, per incuria, non ho provveduto a fare il passaggio di proprietà, non l'ho inserita nella successione. Sì. Adesso questa macchina la guida al 99% mia figlia. Sì. Che deve fare? Io sono obbligato, se la dovessi vendere è chiaro che dovrei fare il passaggio, ma comunque rientra lo stesso in quella... Sì. Nuova norma che andrà in vigore il 3 novembre. Silvio Scotti, lei aveva anticipato un caso in cui ricade un po' la situazione di Mario da Teramo, ma in sostanza che cosa deve fare Mario e le persone che si trovano nella sua situazione? Beh, innanzitutto Mario si trova in una situazione direi diversa, che è comunque una situazione illegittima, e consiglio immediatamente di regolarizzarla. In che modo? È necessario che la carta di circolazione venga aggiornata completamente, cioè venga cambiato l'intestatario, perché ovviamente era tratta di una persona deceduta, e quindi bisogna regolarizzare la situazione dell'intestazione. Dopodiché, se per esempio la macchina dovesse essere intestata al nostro ascoltatore Mario e la figlia convivesse con lui, non ci sono problemi. Se invece dovesse essere intestata a lui e la figlia non fosse convivente e gli concede l'utilizzo, è necessario procedere successivamente all'aggiornamento della carta di circolazione secondo la modalità prevista dalla circolare. Andiamo a Marco, che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Silvio Scotti è sempre chiarissimo, insomma di qua non si scappa. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, ha un quesito tutto... difficile lei? Sì, esatto. Ma mi piace, perché Silvio Scotti è bravo, lo mettiamo alla prova. Esatto. Vada. SNC, 3 soci e 2 macchine date in uso ai soci, in cui non c'è una macchina esattamente per ogni socio, perché essendo 3 soci il problema non è impossibile farlo. Come va a succedere per la legge famosa, normativa del 3 novembre? Ecco, tutti a piedi? Silvio Scotti? No, direi di no. Allora, in questo caso la situazione qua è diversa. Non siamo di fronte ad un'azienda che dà in uso dei veicoli ai propri dipendenti, ma sono decisamente i titolari dell'azienda stessa, che quindi rispondono e possono parlare a nome dell'azienda, sono i diretti rappresentanti, i diretti soci, quindi non si applica in questo caso la disciplina. Ovviamente bisognerebbe anche capire all'interno della società quali sono gli effettivi poteri di rappresentanza per capirlo meglio, ma laddove la rappresentanza sia piena non si pone questione. Allora, e ancora chiamate dai nostri ascoltatori. Mimmo ci chiama da Pescara. Buongiorno Mimmo, benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, volevo un chiarimento, ma questo vale per le immatricolazioni nuove o per le vecchie, anche le vecchie immatricolazioni? Silvio Scotti. Sì, vale per qualunque veicolo che sia ricompreso. Allora, tanto per fare chiarezza, innanzitutto si parla di veicoli, motoveicoli e rimorchi. Tenuto conto che non si applica per adesso ai veicoli superiori alle 6 tonnellate. Quindi non c'entra assolutamente se l'autovettura è nuova oppure se ha già qualche anno. Laddove intervenisse a partire dal 3 novembre una disgiunzione tra il possesso e l'intestatario della carta di circolazione che superi i 30 giorni, è necessario procedere all'aggiornamento. Insomma, i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Cuore Denari, Silvio Scotti, non si danno pace per questa norma, perché insomma molti protestano, che cosa servirà, un'altra buffonata, non si può applicare al privato, e poi naturalmente ciascuno dei nostri ascoltatori ci scrive il suo caso. Voi continuate a farlo, se c'è tempo Silvio Scotti risponde, ma abbiamo parlato di questa norma, abbiamo parlato di revisione, sottolineando l'importanza di avere i documenti tutti in regola, ma revisionati ma anche assicurati, perché non si sa mai, no? L'RC Auto in Italia ha i suoi problemi e i suoi costi elevati, non è l'argomento di oggi, ma ne parliamo spesso in questo spazio, certo. Però in ogni caso, Silvio Scotti, l'assicurazione scade e va controllata anche questa scadenza, soprattutto certo. Bisognerebbe averla, no? Sì, certo. Innanzitutto ricordiamoci che al di là delle sanzioni vere e proprie, il fatto di non avere l'assicurazione ci espone ai risarcimenti, nel caso di incidenti stradali pagheremmo con tutto il nostro patrimonio. Poi la legislazione è particolarmente severa, si parla di una sanzione quantomeno di 841 euro, poi bisognerebbe entrare nel dettaglio per verificare nel concreto che cosa significa la carenza d'assicurazione, poi vi è previsto anche il sequestro dell'autovettura e ci espone veramente a dei rischi notevoli. Tra l'altro all'attualità è anche possibile fare un controllo da remoto, quindi direttamente sulla targa, per verificare se il veicolo è assicurato o meno. Ecco, è questo di cui parlavo a Marco Lombardo, che aveva qualche dubbio, invece la Nico aveva ragione. Ma 800 24 00 24, se volete parlare con noi di patente, di libretto, di revisione, di assicurazione. Silvio Scotti, ma se ci scordiamo dell'assicurazione, c'è una soglia di tolleranza in cui continuiamo comunque ad essere coperti? Sì, sì, abbiamo 15 giorni di tempo, sono previsti dal codice civile di prorogatio, però diciamo anche che normalmente le imprese assicuratrici, almeno per quanto riguarda me, sono molto solerti nel ricordarci la scadenza. È vero, addirittura ci mandano anche messaggi. Esatto. Ecco, per un memento, vogliamo dimenticarci del libretto? Silvio Scotti? No, assolutamente, carta di circolazione va assolutamente portata con sé. Deve ecco, se me la dimentico? Dunque, qua scatta il procedimento che è previsto dall'articolo 180 del codice. Sì. Innanzitutto c'è una violazione, la somma da pagare da 41 a 168 euro, dopodiché la polizia, l'organo di polizia stradale che ha provveduto a fermare il veicolo formulerà un invito molto preciso e darà un ordine di presentarsi presso un posto di polizia per presentare la carta di circolazione oppure il documento che in quel caso è mancante. E se non ci si presenta nei termini, purtroppo la sanzione amministrativa è veramente draconiana. Si parte da 419 euro e si può arrivare fino a 1682. Caspita! Giuseppe, buongiorno dalla provincia di Cremona. Ha avuto un sussulto anche lei? Sì, perché io ho la macchina intestata a mia moglie, però io non risiedo, cioè abito insieme a mia moglie e ai miei figli, però per lavoro ho tenuto la residenza in un altro paese, 35 km di distanza, come faccio? Questo Giuseppe è un bel problema. Silvio Scotti, dove deve andare Giuseppe? Cambia la residenza. No, certo, però diciamo che Giuseppe dovrebbe avere la residenza nel luogo dell'abituale dimora, così dice il codice civile. Sì. Aver spostato la residenza per questi motivi potrebbe anche non essere proprio, diciamo così, in regola per quanto riguarda lo stabilire la residenza. In ogni caso la norma parla di persone conviventi, cioè di famiglie, quindi che vivono insieme. Tuttavia è anche chiaro che laddove vi sia una disgiunzione fra residenza effettiva e convivenza con la famiglia, è chiaro che necessariamente l'organo che accerta dovrà dare la preferenza alla residenza, quella che effettivamente risulta. Quindi in questo caso dovrebbe proprio seguirsi la procedura prevista dall'articolo 247 bis del regolamento del codice della strada e quindi provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione. Non c'è scampo. Silvio Scotti, molti ascoltatori ci chiedono, ma per i conviventi come si devono regolare? Non hanno un adempimento da fare, loro sono esclusi perché la circolare ministeriale è piuttosto chiara e parla di situazioni di familiari di convivenza. Tuttavia, certo, può esserci il problema di quelle situazioni dove esiste la convivenza ma non vi è un rapporto di coniugio o comunque di parentela, e in quel caso credo che rientrino nella normativa, quindi io provvederei in via precauzionale a fare l'aggiornamento. Allora, ringraziamo Silvio Scotti per essere stato con noi, chiaro, ci ha tolto i dubbi, ha tranquillizzato molti. Grazie a Silvio Scotti, torni presto a trovarci. Con lei è fin piacevole parlare di multe. Pensi che cosa le dico? Incredibile, ma vero. Grazie. Buona giornata a Silvio Scotti, a Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica, a Marco Lombardo e a Laura Vanossi. Noi torniamo domani. Buon pomeriggio.